Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Vanità. Decisamente il mio peccato preferito. Siccome ci sono alcuni che si sono svegliati all'improvviso, gli stessi che allora votavano la fiducia con Verdini, gli stessi che facevano gli accordi elettorali con Verdini, perché sembra che Verdini sia il mostro di Loch Ness oggi. Verdini era l'uomo che parlava per Forza Italia insieme alla prima linea del PD di Bersani. È l'esatto opposto del modello di chi apre la casella di posta elettronica e riceve un'email o addirittura firma un contratto, quasi fosse un collaboratore coordinato a progetto, un cocco pro della Casaleggio e associati, e dice: se non fai questo devi dare una multa, devi pagare una multa, non mi ricordo di quanto, devi concordare con lo staff le decisioni. Matteo Renzi ha firmato un contratto a tempo indeterminato con le grandi lobby di questo paese. L'abbiamo visto con la questione Trivellopoli e lo abbiamo visto con la questione Banca Etruria, quindi faccia poco lo spiritoso, perché quello che si è legato mani e piedi ai poteri economici decotti di questo paese è lui. Oggi Lorenzo Nespoli vi vuole svegliare in maniera un po' rock, con dei Clash dannata. Amici, sono le 6:32 minuti, forza! Forza! Saluto subito il mio amico dalla Verde Valtellina, che straordinaria la Valtellina, mamma mia! Tutte le mie vacanze da bambino in Valtellina, a Piateda, Valbona, frazione di Piateda, e Tresivio, insomma, che bei posti. Allora, cari amici, saluto anche, ecco, vedete, Fabri, Lore e Marco da Milano, dalla lontana Milano. Siamo qui, sono le 6:33 minuti, ragazzi, che noia la politica. Mamma mia, sta raggiungendo vette da Everest di noia. Cioè, mancano 10 giorni alle elezioni, non si parla di niente, niente per le vostre amate città, niente. Dovete andare a scovare nei comizi, nei volantini del candidato di quartiere che al mercato tra una spigola e una cicoria vi dice che farà del marciapiede sotto casa, che quello dovrebbe fare il sindaco, quello dovrebbe fare, nient'altro, mica parlare di cosa voto, cosa faccio, coco pro, coco pri, coco su, coco giù. Ma di cosa stiamo parlando? Ma abbiamo perso il senso minimo della misura. trovate un candidato che vi dice: oh signori, la fermata di via Risorgimento 14, sì, la risolverò così, dell'autobus. Oppure vi darò più cultura nella vostra città, Forlimpopoli. Sapete che mi piace sempre Forlimpopoli da citare. Oppure vi darò un auditorium per i ragazzi, per fare i concerti. E queste cose dovrebbe fare un sindaco, un candidato sindaco. Qua da giorni parlano di... si parla dell'AMPI, del referendum di ottobre, si parla di Via Almirante. Questo è 6:34 minuti. Mi sa che la notizia migliore allora è questa. Cara Paola Saluzzi, ti devo convocare subito perché questa è la notizia. Buongiorno. Come stai, Paoletta? Molto bene. Abbiamo avuto un incontro ravvicinato, io e Paola Saluzzi. Un incontro ravvicinato del terzo topo, nel senso che il terzo topo del gruppo era il piccolo Mattia con la sua maglia del Milan. Molto deluso. Lo stadio olimpico. Spieghiamolo, Coppa Italia, stadio olimpico, Juve-Milan. Io ho avuto l'onore non solo di abbracciare Alino Milan, ma di abbracciare il piccolo Mattia Milan, con tanto di maglietta d'ordinanza. Tutto mi spiegava: il primo tempo è andato così, ma sono sicuro che nel secondo tempo andrà meglio. Peccato che c'erano i supplementari. Per dovermi spostare, dopo aver salutato la Saluzzi, ho dovuto far alzare nell'ordine Nedved, Marotta e Andrea Agnelli, passandogli davanti con Mattia tutto bardato di rosso nero. Questa è la sportività, Però tutti in piedi davanti al piccolo Mattia, non c'entrava tanto la squadra quanto il piccolino. Finita la partita, però ho detto: almeno siamo arrivati in finale, papà. Adoro questa forma di ottimismo. Allora, la notizia migliore, mentre convoco insieme a te Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno direttore. Buongiorno Dir. Eccolo qua, solo per Luca Dini abbiamo messo, la nostra convocazione. La notizia del giorno sembra questa, cara Paola Saluzzi, stai attenta, l'ho scovata sul giornale, attentissima. Chiudi la porta di casa prima che ti esca Caterina. Il tuo gatto, la tua amata amicia. Certo. Rubare il gatto non è reato. Attenzione, è stata assolta una condomina che da 7 anni tiene in ostaggio il micio della vicina, ragazzi. E non glielo vuole ridare. La vicina non ha abbattuto la porta? La vicina l'ha denunciata e il giudice ha assolto la ladra per tenuità del fatto. Capisci? È una cosa un la po' la domanda così. È come sta il gatto con la vicina? Perché se il gatto sta bene, questo allora non lo so. Facciamo un condominio di gatti. Questo non lo so. Tenuità del fatto? Devo indagare. Per i giudici, il giornale. Adesso ci dirà l'editoriale. Per i giudici. Un felino è come una scatoletta di tonno. Abbiamo fatto abbastanza sorridere. Sì, in effetti però i gatti se ne vanno in giro per le scale. Caterina vuole dire qualcosa? Ma momentaneamente la vedo dubbiosa e come dire, un po' basita. Quindi preferisco giocare con una papera. Dalle un colpettino sulla gobba, così... Così i gatti fanno così, magari dice qualcosa. Vabbè, insomma, sono le 6:38 minuti. Caro Luca Dini, tu hai animali in casa? Io non ce le ho, però devo dire che fa sorridere, ma neanche tanto, perché vuol dire è la misura di come una certa cultura un po' retrograda, di quanto valuta il rapporto affettivo che ci può essere tra un umano e un animale. Ma infatti si sorride, ma il giornale dedica mezza pagina, cioè dicendo una sentenza che fa discutere. Ma rubate la bicicletta al giudice. Rubate la bicicletta al giudice. Attenzione. Istigazione al furto. Subito, istigazione al furto. Abbiamo un reato subito, bello servito alle 7. Ma piuttosto la domanda è: perché le signore non diventano amiche? E così gestiscono in coabitazione il gatto. Capito, ma sono condomine, cioè hai presente cosa succede mediamente nei condomini italiani? Mamma mia, le riunioni di condominio. Mi chiedono... Poi non vanno d'accordo in Unione Europea, andate alle riunioni di condominio. Esatto, chiedono, e infatti capirete. Un ascoltatore chiede, ma il gatto partecipa all'assemblea condominiale? Non lo so, esatto. Non lo so, anche questo dovremmo appurarlo, dovremmo appurarlo. Allora, che noia questa politica, caro Luca Dini. Tu cosa ci trovi di bello? Trovi qualcosa, per esempio, nella competizione di Milano? Hai trovato qualche candidato che parla di cose interessanti? Ma io devo dire, devo essere onesto, secondo me cioè, sono fiero dei due, diciamo, veri contendenti di Milano, perché sono due, mi sembra onestamente due espressioni di due candidature di livello. Dopodiché quello che dici tu è verissimo, mi sono francamente rotto le scatole di una situazione dove tutto, cioè qualsiasi, ormai appunto anche l'assemblea di condominio è diventata un referendum pro o contro Renzi e la Boschi. Sì, sì, sì. Ormai anche le elezioni in Austria hanno un referendum. Sì, esatto. Anche, no, questa è detto una cosa sacrosanta. Cioè, ieri abbiamo scoperto che dovevamo stare per Hofer o Van der Bellen, due signori che io ho visto in faccia per la prima volta da 15 giorni. Beh, non c'erano dubbi comunque su conquistare. Sì, ho capito, ma cioè, perché questi riflessi, a parte il muro del Brennero, che è l'unica cosa, insomma... perché tutto questo aveva dei riflessi incredibili sull'Italia, cioè, certo. non lo so, però è una politica un po' impazzita. Tu, Paola Saluzzi, ne misuri la temperatura ogni giorno? Sì, assolutamente, diciamo che sull'Austria, se, non solo per anche qui per una questione di vicinanza geografica, ma non solo, perché l'Ungheria, voglio dire, è un pochino più distante, ma i temi sono gli stessi, ecco, meno avanzano xenofobi di chiara e dichiarata pistola in tasca e, se possibile, razzismo di freschissima natura, insomma, che lo trovi fresco tutti i giorni, come se tu andassi a cogliere dei germogli, e meglio è. Dopodiché, che purtroppo questo avanzamento ci sia, questo camminare da parte di questa gente, questi valoni ci sia, e che tutto questo debba far meditare governi che evidentemente non hanno fatto abbastanza per convincere i propri cittadini, perché quel 50% rappresenta un voto comunque democratico, perché la gente voglia annullare la democrazia è un altro paio di anni. Però insomma vanno fermati, però hai usato... È argomento di discussione che immediatamente diventa, allora in Italia votate a favore o contro. Esatto, anche perché hai usato tu un termine xenofobo che ieri ha suscitato un mare di polemiche. Perché? Perché l'ex capo della Repubblica, l'ex presidente Giorgio Napolitano, ha definito xenofoba la Lega. Sentite, era all'università, quella dove insegna adesso anche Enrico Letta in Francia. Noi abbiamo in Italia il fenomeno della Lega, oggi è diventato la principale espressione in Italia di posizioni xenofobe, di posizioni nazionalistiche, di posizioni anti-elitarie, anti-istituzionali. Capito, xenofobe, la risposta di Salvini è stata questa. È imbarazzante pensare che sia stato Presidente della Repubblica, ancora più imbarazzante pensare che sia Presidente emerito. È il padre adottivo di Renzi, è l'inventore di Renzi, quindi abbia il pudore di tacere. Credo che abbia anche aggiunto va ricoverato in una margine. Allora, caro Luca Dini, la Lega è xenofoba secondo te? Cioè, è evidente, adesso non è che voglio, lo dico, come dire, mi pare non solo che lo sia, mi pare che Salvini abbia sapientemente giocato la carta della xenofobia e della paura. Che funziona in Italia, non funziona dappertutto, guarda quello che sta succedendo negli Stati Uniti, quindi francamente far finta di scandalizzarsi lo trovo ridicolo, quando si è usato strumentalmente. Dice, utilizza quegli argomenti e poi se uno glielo fa notare non dovrebbe scandalizzarsi. Questa, dovrebbe dire bene sì. Cara Paola, che ne dici? Noi ascoltiamo tutti, bene. Noi ogni giorno ascoltiamo tutti e ascoltiamo le ragioni e le argomentazioni di tutti. Eh sì, perché... E questo è. Questo è. E no, questo è. No. Poi ad ognuno trae le proprie considerazioni, insomma. Certamente, ripeto, chi permette alla xenofobia di avanzare, ecco, deve fare i conti col proprio lavoro, insomma, bisogna controproporre, e credo che questo si stia facendo, e comunque lo si stia facendo in Europa da parte di politiche assennate e sensate, si debba controproporre la soluzione ai problemi per evitare che la xenofobia prenda piede. Tra l'altro, vabbè, questo è un tema, non è la prima volta che si scontrano così, ma questa volta proprio in maniera frontale, Napolitano, insomma. Frontale, sono xenofobe e si faccia ricoverare. Magari ci vuole anche rispetto per le persone. Poi xenofobia di sé non è una parolaccia, è paura. È paura degli altri, e quella c'è, cioè la parolaccia è lo strumentalizzazione della xenofobia. Xenofobia, secondo me, è una parola che non dovrebbe neanche fare sconvolgere più di tanto. Bisognerebbe risalire all'etimo, e quindi insomma è un po'. Esatto. Che nella politica tutto cotto e mangiato è un po' complicato, insomma, andare ad approfondire, insomma, si viaggia un po' per slogan e botta e risposta. Però a proposito di botta e risposta, dopo il traffico, e voglio far sentire un mitico candidato sindaco a Ruvo in Puglia, dopo il traffico. Se volete parleremo anche un po' di America e di Trump tra poco. Milan, mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. La vera campagna per il no la fanno proprio Renzi e Boschi, dicendo di andare via se vince il no. Ciao Milan, ma secondo te Hofer richiederà il conteggio dei voti come di italica abitudine? Signor Milan, ma pare che la signorina Boschi sta esagerando. Ogni volta che parla dice una stronzata, Partigiani chi? Ma siamo nel 2016, c'è la generazione dei millennials che neanche sa cosa sono i partigiani. Quanto sei antipatico, potreste startene pure a casa, ragazzo, invece di lamentarti che non c'è la metropolitana di mattina a fare quel casino di gallinacce, a ridere e dire ma lascia perdere. Milan, io vado a lavorare, comincio alle 5, 11 km in bicicletta, 20 minuti, dai che fai l'allenamento, dai, vai in bicicletta, dai che è facile, dai, è solo una questione di allenamento. Ciao Milan, ciao, buona giornata. Niente, vabbè, la gente adesso dispensa consigli. Perché io mi sono lamentato ieri, perché quando ho scoperto che a Londra partirà la metropolitana 24 ore H24. su 24, ho detto noi siamo nel Medioevo, voglio dire, Milano, città metropolitana mondiale, io sono costretto alle 5:30 a prendere la macchina, andrei volentieri in metropolitana, quindi se sono partiti con bicicletta. E poi puoi dirlo, mi pare che siamo ancora, la bicicletta è una proposta. Iniziano, insomma, bicicletta, no? Mongolfiera, fatti portare dall'Alpino, c'è chi mi ha detto fatti portare da Balotelli quando esce dal Night, ci sono le proposte più invece disparate. Per quanto riguarda i partigiani, siamo la generazione, non sappiamo neanche chi siamo, aggiornarsi, cioè il fatto che siamo andati avanti, il fatto che sia una generazione che abbia i nonni out, bisnonni, anzi i nonni che non hanno fatto la guerra perché erano bambini, e quindi va bene tutto, non vuol dire non conoscere. Come ho detto ieri, c'è gente che, a proposito di xenofobia e a proposito anche di una sana ignoranza, se gli dici Rosa Parks pensa che sia un detersivo per lavatrice profumato. Magari Trump la pensa così. Trump che legge Mein Kampf, per esempio, e che trova interessante lettura del Mein Kampf. Poi la lettura va sempre fatta, perché la lettura ti permette di conoscere. Il problema è come recepisci tu quella lettura. Non detta su Trump, chiaramente, che sarà lontano mille miglia da quelle posizioni. Però insomma è questione di come tu recepisca queste cose, no? No, ma è chiaro. Ma prima di arrivare a Trump, perché voglio sentirvi su questo, vi voglio far sentire Antonello Paparella. Tu lo conosci, Luca Dini? Antonello Paparella, se tu fossi... L'ho sentito. detto. A Ruvo in Puglia magari lo voteresti. Antonello Paparella, candidato sindaco modello Cettola qualunque, senti qua. Perché noi abbiamo la capacità di fare mea colpa e di anteporre quelle che sono le questioni personali agli interessi di un'intera collettività. Ma come anteporre gli interessi personali alla collettività? Sarebbe il contrario, caro sindaco, caro candidato sindaco. Noi, cioè parlano, fanno questi comizi in cui gli stampano. Ma forse gli è sfuggita la riga, anteporre gli interessi della comunità a quelli personali. Forse posporre era troppo complicata, non lo so. Vabbè, insomma, ha sbagliato una riga, dai. Sì. Però ha fatto venire in mente il mitico, qualunque mente. A proposito sempre di sindaco, sentite questo, è da tre giorni che circola la questione dei vigili urbani che hanno in qualche modo infastidito una riunione di Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle a Roma. Uh-huh. Nel pieno svolgimento arrivano i vigili. Ecco perché è importante tutto quello che diciamo prima. Chi ha chiamato i vigili sopra... per non fare multe? Le multe! Perché stanno a fare multe sulla strada? E lì c'è il fuggi, gente che si alza! Caro Luca, oggi il deputato Vignaroli del Movimento 5 Stelle intervistato dice: ma perché vi siete alzati tutti? Ma no, perché è entrato uno dicendo i vigili e c'è stato il riflesso condizionato come se uno avesse detto c'è una bomba! Una bomba! Non eravamo in divieto di sosta, è che ci sono i vigili, la gente riflesso c'è stato un grande Gramellini ieri su questo, sì. Sulla stampa, esatto. Un grande Gramellini. Aspettiamo anche notizie per Pizzarotti ora. Sì, esatto. Cerchiamo di capire anche lì che cosa succederà, però ci stanno i vigili, poi non so a Milano, ma soprattutto a Roma. Ci stanno i vigili. Di la verità, anche te Luca, tutti. Luca, quando arrivano in riunione di redazione, dici: ci sono i vigili! No, perché io vado a piedi. No, ma la redazione che si svuota. Aspetta, direttore, aspetta. Tutti che corrono, di sotto. Un gran classico. Però, caro Luca, tu che spesso sei anche negli Stati Uniti, c'è Donald Trump che ha deciso di utilizzare le stesse armi con le quali viene accusato, e cioè quello di essere un po', come dire, irruente con le donne. Mettiamola così. Dicendo, ha postato questo video in cui due donne. No woman should be subjected. Una si chiama Juanita, l'altra Kathleen. Dicono in lacrime di essere state molestate da Clinton. Siamo arrivati a questo, ragazzi. Cioè, è anche questa la campagna americana, no? Era prevedibile, aspettavamo solo il quando. Ma perché si usano queste armi bieche poi, no? Bieche, non ma voglio dire, era ampiamente previsto, lui farà qualsiasi cosa. Ne vedremo ancora di peggio. Che quelle cose non siano, cioè, alcune di quelle cose sono successe, una delle due mi ricordo è un caso molto controverso, però di fatto, voglio dire, è evidente che Hillary Clinton si porta dietro questo bagaglio. Certo che che l'elezione della carica più importante del pianeta si riduca così. Un po' imbarazzante. Esatto. Vorrei capire, Paola, da donna, che effetto ti fa? Cioè, vedere che, per carità, poi bisognerà capire se effettivamente ci sono state delle molestie. Molestie, e uno dovrebbe rispondere a colpi di ceffoni sul naso, sul naso, per dire, e questo vale per tutte le donne del mondo e nei confronti di qualsiasi uomo al mondo. E a maggior ragione se quell'uomo è un uomo di potere, le molestie sono doppiamente odiose e doppiamente da colpevolizzare. Dopodiché, che si vada a colpire il marito di una signora che, come dire, ha mondialmente e universalmente già pagato errori fatti dal marito, e mi sembra che su questo Hillary Clinton abbia avuto le spalle molto larghe e abbia avuto anche la capacità di riprendersi. rispetto ad uno scandalo internazionale, lo si va ad accusare il marito per colpire la moglie su un argomento che ti ha colpito, perché tu sei esattamente così, cioè sei uno che quando parla delle donne è meglio togliere l'audio e anche cambiare canale, perché l'espressione purtroppo fa da cinema muto. È tristissimo. Però diciamo ci sta questo in una campagna elettorale in cui i colpi sono bassissimi, voglio dire. Sì, ma ribadiamo, il presidente degli Stati Uniti è persona che decide non solo per gli Stati Uniti ma anche per il resto del mondo, quindi mamma mia. Certo, dirime, mamma mia, con 4 M al centro, sì, dirime tutta la questione in un'intervista epocale a pagina 3 pensate del giorno, Lori del Santo, che dice Trump è un galantuomo e quando incontra le donne fa loro il baciamano. Vabbè. Però, capito. Luca Dini, oggi vedo su Vanity Fair. Dov'è Vanity Fair? Eccolo qua, Kristen Stewart, che voglio dire, quando è entrato Lorenzo Nespoli me l'ha dato con un certo anche disappunto, dicendo è quella di Twilight. Cioè, giusto. Perché chiaramente io, non sapendo nulla, arrivo. No, ma non è che non so nulla, so, ma non associo le facce ai film. Certe volte non lo sai. Certe volte non lo so. Mo ci nascondiamo dietro un dito. Avanti. Però la maggior parte delle volte non associo il volto ai film e alla carriera che ha fatto. Quindi non ti concentri sui volti. Non mi. Insomma, questo è terribile. No. Seguo su Twitter, dico solo questo. È la zampata di Luca Dini che io adoro. È un gatto lui. Sì, se poi inferisce, ti seguo su Twitter, ti dico solo questo. Come dire che io su Twitter posti delle robe. Vabbè, ogni tanto, insomma, così, ma in maniera innocente. Non sono innocente, direttore? Sempre. Mi devo rassettare. Sì. Vabbè, comunque, Kristen Stewart è sulla copertina di Vanity Fair, mentre alle 15 vi ricordo come sempre Paola Saluzzi su Sky TG24 pomeriggio. Ti porto i saluti ovviamente di Mattia, deluso ma contento di averti un po' spupazzato, ecco, diciamo così. Va bene, ciao a tutti. La battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori. Non è vero, ma come? Infattamente, se tu mi voti ti trovo un lavoro e ti sistemo. Se tu non mi voti, intuculati e tutta la famiglia. Il segnale orario vi è offerto da Giovanissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici miei, sono le 7:19 minuti e siamo pronti a leggere i giornali. È da un po' che non lo dico, ma debosciatelli miei, come state? I miei amici debosciati che magari si uniscono a quest'ora mentre noi siamo qui in diretta dalle 6:30 a 24 mattino, ricordatelo. Dai, andiamo a leggere i giornali. Alino, il primo debosciato sei tu! E questo si sa, mercoledì 25 maggio, i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sulle borse, rally con le banche, la BCE studia un piano NPL per il nodo sofferenze, questo è il titolo di prima pagina. Mentre la maggior parte dei quotidiani sceglie le pensioni come tema principale, pensioni minime si cambia, questo è il titolo del Corriere della Sera, Renzi annuncia bonus o assegni più alti. Per Repubblica, pensioni così la riforma. Il Messaggero, così cambiano le pensioni. Libero invece continua in una campagna molto aggressiva nei confronti dell'INPS. Divorati i soldi dei pensionati. Cassa disintegrazione. Che guaio. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il giornale, gli affari dell'INPS, il giornale si è unito in questa campagna. Palazzinari con le nostre pensioni. L'istituto di previdenza costruisce affitta case ma ha già perso 245 milioni. Mentre per il Fatto Quotidiano ancora referendum. Rai, il sì marcia reti unificate, per il no un minuto in tutto.